la chiesa? Come stiamo? Benissimo, mi ha colto un tantino impreparata, pensavo ci fossero le notizie. E quindi, no, non impreparata, no, altrimenti. Bene, chi è contento di essere qui? Non c'è posto migliore se non questo. Che giorno è oggi? 23. 23 ottobre 2016. Non potevi essere in un posto migliore di questo. Insieme alla tua famiglia, insieme alla famiglia di Dio, insieme al corpo di Cristo, radunato attorno alla sua parola. È meraviglioso, non c'è posto migliore. E sapete, non so se sei qui per la prima volta o per la centesima, non so se sei qui la prima volta da 10 anni, ma tutto quello che facciamo qui, tutto quello in cui noi crediamo, lo crediamo e lo facciamo perché è scritto. Perché c'è autorità in quello che facciamo, perché c'è verità in quello che crediamo, non perché siamo così tanto intelligenti che abbiamo scelto la cosa migliore alla quale credere, ma perché c'è scritto. È la volontà buona, perfetta e gradevole di Dio messa per iscritto. E tutti i canti che abbiamo cantato, ci siamo chiesa, sì, tutti i canti che abbiamo cantato, tutte le preghiere che abbiamo confessato, questo momento meraviglioso che abbiamo passato, l'abbiamo passato perché? Perché Dio è qui e perché Lui ci ha istruito, ci ha insegnato a fare tutto quello che stiamo facendo mandandocelo per iscritto nella sua parola. Quindi è alla sua parola che vogliamo andare oggi, è nella sua parola che ci vogliamo immergere da subito. Perché? Perché vogliamo essere ulteriormente equipaggiati, perché vogliamo essere ulteriormente trasformati, perché vogliamo essere sempre di più una chiesa che è ad immagine e somiglianza di Gesù, una chiesa che sa chi è in Dio e sa a cosa è chiamata a fare sempre in Dio, per la gloria sua. Sì? Ci siamo? Sei pronto ad essere equipaggiato? Sei pronto a cibarti della sua parola? Benissimo. Io vorrei che ponessimo attenzione. Non so, sento un mormorio, ma vorrei che ponessimo attenzione, non perché io ho qualcosa da dire, ma perché oggi Gesù vuole parlare al tuo cuore come vuole parlare al mio. E quindi non distraiamoci, perché come dice sempre il nostro pastore, la distrazione è un furto. E c'è qualcuno che assolutamente non vuole che tu porga attenzione a quella che è la parola di Dio, perché vuole che tu rimanga nella situazione che vivi magari da una settimana, un anno, 10 anni. Ma Gesù vuole cambiare quella situazione in meglio. Bello o brutta che sia, Gesù la vuole cambiare in meglio. Amen? Quindi andiamo in Atti 3. Prometto sempre che non griderò. Ho chiesto, non mi credete? Atti 3, dal verso 1 al verso 8. Lo leggiamo insieme. Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, egli chiese loro l'elemosina. Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse, li conosciamo benissimo questi versi, dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò E in quell'istante le piante dei piedi e le caviglie li si rafforzarono. E con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Che storia meravigliosa! Questa forse è una delle storie che più preferisco. Lo so che lo dico per ogni storia, ogni volta che predico, però che ci devo fare? La Bibbia è bella, è tutta bella, dall'inizio alla fine. Ma questa storia ha un posto speciale nel mio cuore. E chiaramente si trova in Atti, no? Abbiamo detto, si trova in Atti 3. Quindi, essendo Atti un libro storico, è importante capire quello che è successo prima, è quello che è successo dopo, per poter capire bene bene il significato di questi versi che abbiamo appena letto. È un po' come quando si sta vedendo un film e arriva l'amica ritardataria e ti incomincia a fare tutte le domande, perché vuole sapere di che cosa parla questo film, quali sono i personaggi, che cosa è successo, perché quello sta piangendo. Chi ha un'amica come questa che sto descrivendo? Io sono questa amica che sto descrivendo e io stresso i miei amici di film che puntualmente mi rispondono: noi non lo sappiamo, lo dobbiamo ancora capire, quando è bugia, perché 15 minuti e finisce il film. Comunque, non vogliamo fare questo errore, perché poi tra l'altro io non capisco mai niente dei film che vedo in questo modo, e quindi vogliamo capire un po' a che punto della storia ci siamo. Atti 3, 1-8. Quando è successo? Che cosa è successo prima? Che cosa è successo dopo? L'autore di Atti chi è? Luca. Lo stesso Luca che ha scritto il Vangelo. Quindi non sarebbe un errore leggere Atti come una continuazione del Vangelo di Luca. Quindi che cosa è successo prima di questo miracolo? È successo che Gesù è stato crocifisso. È successo che Gesù, per ubbidienza al Padre, ha dato la sua vita. Ha dato la sua vita perché doveva necessariamente, perché il Padre gliel'aveva comandato, doveva darsi in sacrificio per tutti i peccati del mondo, quelli passati, quelli presenti e quelli futuri, affinché chiunque poi avrebbe creduto in Lui avrebbe potuto ricevere la sua grazia, avrebbe potuto ricevere la vita eterna. E io e te siamo qui perché abbiamo creduto in quel sacrificio e perché abbiamo abbracciato la sua grazia, abbiamo abbracciato quel perdono, abbiamo abbracciato quella salvezza. Gesù è crocifisso, ma non è rimasto crocifisso, perché noi abbiamo cantato poc'anzi che Gesù è vivo. E qua ci va ancora un altro applauso, ancora più forte, perché Gesù non è stato solo crocifisso, Gesù è risorto. Nel suo sacrificio Dio Padre ha trovato la più completa soddisfazione. Per questo ha risorto Dio Figlio Gesù dalla morte. Neanche la morte l'ha potuto trattenere. Ed essendo poi risorto Gesù, che cosa è successo? È successo che da essere distanti da Dio siamo stati riconciliati al nostro Padre, che possiamo chiamare Abba, Papà. Voglio vivere con te, voglio vivere per te, voglio servire il tuo nome. Eravamo condannati dal nostro peccato e Gesù ci ha perdonati. Eravamo schiavi di noi stessi, schiavi del peccato, schiavi del male, e Gesù ci ha liberato. Perché? Perché Gesù non è rimasto morto, Gesù è vivo, Gesù è risorto. E io non lo so in che condizione tu ti trovi in questo momento. Non lo so se il fatto che Gesù è risorto è relativo per la tua vita, è solo una bella notizia. Magari forse non ci credi, oppure ha trasformato la tua vita oggi e trasformerà la tua vita in eterno. E io ti prego, la mia preghiera è questa, che se non hai conosciuto Gesù come tuo personale salvatore, se il fatto che Gesù è morto e risorto non è diventato carne nella tua vita e non ha portato la tua vita ad essere trasformata, ad innamorarti sempre di più di Gesù, a usare i tuoi giorni per servire Cristo, allora oggi è un giorno speciale per te, perché puoi fare questa decisione. Gesù è qui ed è morto ed è risorto per te come anche per me. Quindi nella storia Gesù è stato crocifisso, Gesù è risorto. Poi Gesù spende, lo vediamo che spende 40 giorni con i suoi discepoli, con gli amici suoi, e quindi li istruisce, gli insegna del regno di Dio, gli parla della sua seconda venuta, poi ascende al Padre. Poi dice ai discepoli: è buono per voi che io, l'abbiamo ascoltato la settimana scorsa e anche stamattina, è buono che io vada via, perché arriverà, manderò un Consolatore, lo Spirito Santo, e Lui vi rivelerà tutta la verità. Quindi Gesù ascende e promette il Consolatore, promette lo Spirito Santo. E poi che succede? Qui siamo già in Atti 1-2, succede la Pentecoste, succede che la promessa che Gesù aveva fatto ai suoi discepoli si adempie, si avvera, perché Gesù non è un bugiardo, Gesù non può mentire. Come ha realizzato quella promessa, così realizzerà tutte le altre promesse che ha dato alla tua vita. Gesù adempie quella promessa, lo Spirito Santo scende. In Atti 2 vediamo che la promessa è: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo scenderà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, nella Samaria e fino all'estremità della terra. Non sono più parole, non è più una promessa verbale, è diventato fatto. Lo Spirito Santo è sceso e i discepoli hanno incominciato a parlare in queste lingue che loro non capivano, che però tutte le persone attorno le comprendevano, perché erano di altri paesi e parlavano altre lingue, e loro ascoltavano nella loro lingua nativa le cose grandi e meravigliose di Dio. Lo Spirito Santo era sceso, aveva riempito della sua potenza, della sua presenza i suoi discepoli, e si stava manifestando. Lo Spirito Santo è sceso per dimorare, è sceso per equipaggiare, è sceso per dare potenza a chiunque lo riceva, in primis ai suoi discepoli. E in quel momento che cosa è successa? È nata la Chiesa. C1, dove state? Oggi avete parlato della Chiesa, giusto? Mi fate un cenno? Quindi, che significa Chiesa? Allora, Michele, dobbiamo rifare questa lezione. No, che sono un po' timidi, Bravo, un applauso a Francesco! Lo Spirito Santo è sceso e in quel momento ha riempito i suoi discepoli e lì si è formata la Chiesa. La Chiesa, un gruppo di persone potenziate, equipaggiate, riempite dello Spirito Santo affinché l'opera che Gesù aveva incominciato potesse essere conclusa, potesse essere completata. Questo è quello che noi siamo come Chiesa, un gruppo di persone piene dello Spirito Santo con una missione allegata: finire l'opera di redenzione che Dio Padre ha incominciato con Dio Figlio, Cristo Gesù, su questa terra, e vuole continuare con la nostra Chiesa e con la Chiesa in generale, equipaggiata da Dio Spirito Santo. Questo è chi siamo, e vediamo che è proprio quello che accade. Lo vediamo in Atti 2. Spirito Santo scende, si forma la Chiesa, Pietro predica e 3.000 persone si convertono. 3.000 persone si convertono, che significa? Che da andare verso una direzione opposta a quella che Dio aveva stabilito per loro, si girano, fanno un giro a 180 gradi e incominciano a seguire la volontà di Dio. 3.000 persone, e nel verso 47 c'è scritto che il Signore aggiungeva ogni giorno tutti coloro che venivano salvati. In Atti 4 c'è scritto che tutti erano pieni dello Spirito Santo e succedevano miracoli e prodigi, opere potenti. In Atti 5 c'è scritto che addirittura le persone portavano i malati, coloro che erano posseduti da demoni, li portavano affinché l'ombra di Pietro potesse toccare loro e loro potessero essere guariti. Questo è quello che è successo alla Chiesa. Perché? Perché lo Spirito Santo era sceso e perché lo Spirito Santo ha equipaggiato quella Chiesa per fare opere potenti, per proclamare il Vangelo e per crescere. È questo che succede. La Chiesa fa tre cose. Proclama il Vangelo, predica la parola, opera cose potenti, miracoli, liberazioni, e cresce di conseguenza. E questo, Chiesa, è questo quello che lo Spirito Santo ha sempre fatto attraverso la sua Chiesa. Lo vediamo dal primo capitolo di Atti fino alla fine della Bibbia. E lo sapete qual è la novità? Che lo Spirito Santo non ha finito. Che la stessa cosa la vuole fare attraverso di noi, attraverso la Chiesa oggi nel 2016, attraverso la nostra Chiesa, attraverso me e te. Quindi questo non è solo il contesto della storia di Pietro, di Giovanni e del povero nato zoppo dalla nascita. Non è solo il loro contesto, questo è il nostro contesto. Questo è da dove veniamo noi. Questo è quello che potrebbe succedere domani. Anzi no, questo è quello che noi preghiamo succeda domani. Perché? Perché lo Spirito Santo è lo stesso ieri, lo è oggi e lo sarà in eterno. Questo è perché noi come Chiesa non abbiamo un'identità diversa da quella che è stata fondata in Atti. E tantomeno abbiamo una missione diversa. È la stessa missione, la salvezza del mondo, di tutti coloro che crederanno in Gesù. Lo Spirito Santo è lo stesso, non si è calmato. Non è che sono passati 2000 anni e si è invecchiato. Soffia un po' di meno, brucia un po' di meno. No, lo Spirito Santo è lo stesso, perché Dio non cambia. E lo Spirito Santo, come l'ha fatto nel primo secolo, lo vuole continuare a fare nel 21° secolo. Vuole continuare a guarire, vuole continuare a edificare, vuole continuare a santificare, vuole continuare a istruire, vuole continuare a disciplinare, vuole continuare ad allargare la sua Chiesa per quanti ancora non conoscono Cristo. Amen? Quindi è con questa prospettiva, essendo coscienti che questo non è il contesto della storia che abbiamo letto in Atti 3, è il nostro contesto. Noi possiamo vivere tutto quello che c'è scritto, né di più e né di meno, perché lo Spirito Santo è sempre lo stesso. Ritorniamo alla storia, con questo in mente. È chiaro? Ci siete? Perché? Perché ritorniamo alla storia? Perché? Quello che ho capito è che questa è la storia di Pietro, di Giovanni e del povero nato zoppo. È la loro storia, ma è il nostro modello. È quello che è successo a loro, ma è quello che noi possiamo prendere d'esempio da domani. Quindi lo faremo rispondendo a tre domande. La prima, che cosa è successo? È facile, perché insomma l'abbiamo letta la storia. Quindi lo sappiamo cosa è successo. È successo che c'era Pietro e che c'era Giovanni, due uomini ordinari, molto, molto normali. Che significa? Due uomini limitati, due uomini peccatori, due uomini che avevano pregi e difetti. Hanno avuto momenti di gloria e hanno avuto grandi fallimenti. Hanno avuto, sono stati protagonisti di cose meravigliose, come anche sono stati protagonisti di cose vergognose. Ricordiamo la storia di Pietro. Da nessuna parte, nei Vangeli, nell'intera Bibbia, da nessuna parte Pietro e Giovanni sono descritti come degli eroi, come persone che non avevano sbagliato mai, ma sono descritti solo, tra virgolette, solo come persone fedeli, solo come persone che erano state cambiate da Gesù e che avevano preso la decisione di seguire Lui. Sempre e comunque. Possiamo essere pure noi così? Secondo me sì. Secondo me non è che possiamo essere così. Secondo me siamo così. Limitati e siamo. Peccatori e siamo. Abbiamo scelto di seguire Gesù e l'abbiamo scelto. Quindi abbiamo il curriculum giusto. Quindi abbiamo Pietro e Giovanni, due uomini ordinari. Cosa stavano facendo? Stavano andando al Tempio a pregare. Stavano facendo qualcosa di normale, di quotidiano. Non era né la prima e non è stata né l'ultima volta che sono andate al Tempio a pregare. Stavano vivendo la loro vita quotidiana. Ma qualcosa è successo. E qualcosa, Chiesa, succede sempre. Quando due persone ordinarie si mettono a disposizione dello Spirito Santo. Quando due persone ordinarie sono ripiene dello Spirito Santo e si fanno usare da Lui, qualcosa succede sempre. Che cosa è successo? È successo che hanno visto quest'uomo. È successo che in un giorno qualunque, un lunedì qualunque, quest'uomo è stato cambiato per la sua eternità. Quest'uomo da essere zoppo, con un balzo c'è scritto, è andato danzando, saltando, correndo al Tempio a pregare ed è diventata una testimonianza vivente della potenza di Dio, della potenza dello Spirito Santo, della potenza che c'è nel nome di Gesù, della potenza che c'è in un'unica preghiera. Due uomini ordinari, un lunedì qualunque, e quell'uomo è stato trasformato per la sua intera eternità. Non è meraviglioso? Ricordate, non è il loro contesto, è il nostro. Veniamo da qui noi. Quindi questo è quello che è successo. Ora, perché è successo? È successo fondamentalmente per tre motivi. Perché lo sapete, quando predico io sono sempre tre i motivi. E anche se ne trovo quattro, lo inglobo quel quattro, perché devono essere sempre tre. Primo, è successo che quest'uomo è stato cambiato per la sua eternità e che lo Spirito Santo si è usato di due persone completamente ordinarie come me e te, perché uno, Pietro e Giovanni avevano lo stesso focus dello Spirito Santo, avevano, come dire, gli stessi occhi dello Spirito Santo. Notate nel verso 4, c'è scritto Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guardaci. Ve l'ho detto, certamente non era la prima volta che Pietro e Giovanni si stavano recando al Tempio. E quell'uomo zoppo lo portavano tutti i giorni. Quindi molto probabilmente Pietro e Giovanni l'avevano già visto, questo uomo. Forse erano passati avanti, forse gli avevano dato due spiccioli ogni tanto, ma l'avevano visto e non era successo niente. In Atti 3 l'hanno visto per la prima volta veramente. Hanno visto quest'uomo veramente e hanno riconosciuto il suo vero bisogno. È incredibile. Perché? Solo perché erano pieni dello Spirito Santo. Solo perché vivevano con lo Spirito Santo, erano equipaggiati della sua presenza, della sua potenza e di conseguenza i loro occhi erano cambiati e la sensibilità del loro cuore era cambiata. Perché? Hanno visto quell'uomo perché in loro viveva colui che vede gli emarginati. In loro viveva colui che ascolta il grido di chi soffre. In loro viveva colui che vuole salvare, che vuole liberare, che vuole guarire nel primo secolo come oggi. Amen? Allora la domanda oggi che io mi pongo e che io ci pongo è: qual è il nostro focus? Come stiamo guardando? Chi stiamo guardando? Come guardiamo le persone attorno a noi? È la stessa maniera dello Spirito Santo? Probabilmente quando usciamo di casa non c'è uno zoppo nato così sul marciapiede, però molto probabilmente c'è la nostra collega che combatte da una vita contro la depressione. Molto probabilmente c'è il nostro parente che combatte contro un male fisico. Molto probabilmente ci sono i nostri compagni di scuola che vivono una vita dissoluta, che vivono una vita vuota. Loro sono, permettetemi così, i nostri zoppi spirituali. Lo so che suona malissimo, però capite il cuore. Come stiamo vedendo? Con quali occhi ci stiamo guardando attorno? Lo Spirito Santo vive in noi per questo, per aprirceli questi occhi, affinché il nostro focus possa essere il suo, affinché il nostro cuore possa battere a suo ritmo, affinché le nostre priorità possano essere le sue, affinché la nostra missione possa essere la sua, non una carriera, non tanti soldi. Se ci sono, va bene, è benedizione pure quella, ma non è la priorità. La nostra missione è diversa. La nostra missione è, nello Spirito Santo, salvare il mondo. Scusatemi se è poco. Sì? Quindi, i discepoli avevano lo stesso focus dello Spirito Santo. Numero due. I discepoli, Pietro e Giovanni, camminavano con lo Spirito Santo, ripieni dello Spirito Santo, tutti i giorni, nel loro quotidiano. Stavano andando al Tempio. Non suona molto come stavano andando a fare la spesa, stavano andando al lavoro, stavano andando a scuola, stavano andando in chiesa. Loro vivevano nello Spirito Santo, con lo Spirito Santo, ripieni della sua presenza. E quello che loro avevano capito è che lo Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo, la sua manifestazione non era un accessorio del Tempio. Non era l'opera dello Spirito Santo, non era da allegare solo ad un posto o solo a una determinata audience. Lo Spirito Santo era in loro e dovunque andavano c'era Lui e qualunque cosa dicevano c'era Lui al centro. Stiamo attenti, Chiesa. Stiamo attenti a non considerare lo Spirito Santo come un accessorio, perché Lui è Dio, non è un qualcosa, è un chi. Lui è Dio, è la terza persona di Dio, e considerarlo come un accessorio, come una performance, come un gettone per le necessità, è un peccato molto brutto. Siamo attenti, perché non siamo chiamati a questo. Noi siamo chiamati ad essere ripieni di Dio, dello Spirito Santo, per operare opere che danno gloria a Lui. Non solo qui, non solo quando c'è una casa di preghiera, non solo la domenica, sempre, dovunque e con chiunque. Sì? Tre. Pietro e Giovanni avevano lo stesso focus. Vivevano con lo Spirito Santo tutti i giorni e Pietro e Giovanni, questa è la mia parte preferita, erano consapevoli di ciò che avevano ricevuto. Erano consapevoli di quello che c'era nelle loro mani, di quello che veramente potevano offrire. Nel verso 6 c'è scritto: ma Pietro disse al povero zoppo, dell'argento e dell'oro non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Cristo il Nazareno, cammina. Pietro e Giovanni non hanno permesso a quello che non avevano di frenarli. Non hanno permesso alla loro mancanza di risorse di uscire dal gioco. Perché erano consapevoli di quello che era il vero bisogno dello zoppo. Tante volte noi e chi ci circonda chiediamo delle cose che non rispecchiano il nostro vero bisogno. Lo zoppo, che chiameremo Vito, mi dispiace chiamarlo zoppo, lo zoppo stava chiedendo l'elemosina, che non gli avrebbe cambiato né la vita presente e né tantomeno quella futura. Ma era la sua quotidianità, era quello che era abituato a fare, era quello forse che gli avevano detto di fare. Stava chiedendo una misera elemosina. Quello non era il suo vero bisogno. Il suo vero bisogno era essere guarito. Il suo vero bisogno era essere salvato. Pietro e Giovanni hanno visto il vero bisogno della persona che stava loro davanti e hanno riconosciuto che loro non mancavano di nulla per poter soddisfare quel bisogno. E tante volte noi non ci rendiamo conto di quella che è veramente l'autorità che noi abbiamo in Gesù. Noi non ci rendiamo conto del dono che abbiamo ricevuto per fede e ci inganniamo pensando se solo sapessi parlare, se solo fossi loquace come il pastore, se solo potessi fare delle preghiere più buone, come se tra parentesi ci fossero delle preghiere di serie A e delle preghiere di serie B. Non credete? Quello che stiamo facendo quando facciamo così è mettere sotto una lente di ingrandimento l'oro e l'argento che non abbiamo, ingannandoci, perché non abbiamo bisogno né di oro e né di argento. Quello di cui abbiamo bisogno ce l'abbiamo, è dello Spirito Santo. È solo Lui, la sua manifestazione, la sua guarigione, il fatto che Lui può restaurare, il fatto che Lui può convincere di peccato, è questo di cui le persone hanno veramente bisogno. E noi ce l'abbiamo. Sì? Pietro e Giovanni avevano capito molto bene questo. Molto bene, sapevano che nelle loro mani c'era il potere, c'era la potenza dello Spirito Santo. Loro sapevano che erano stati dotati di fede, di operare guarigioni, di operare miracoli, di poter avere parole di conoscenza, di poter avere parole di sapienza, di poter parlare in lingue, di poter interpretare le lingue, di poter discernere gli spiriti. Loro avevano tutto questo e lo sapevano e l'hanno messo in azione. Si sono fatti guidare da Dio. Lo Spirito Santo, Chiesa, dispensa, distribuisce i suoi doni per incontrare il vero bisogno delle persone. I doni, la manifestazione dello Spirito Santo non sono dei trofei, non sono dei premi, non sono dei giocattoli, non sono delle scuse per potersi sentire uno migliore dell'altro. No, sono degli strumenti da lavoro. Sono degli strumenti per servire meglio la Chiesa, sono degli strumenti per servire meglio il mondo. E noi ce li abbiamo. Amen? Li stiamo usando. Io so che li stiamo usando, però so che li possiamo usare molto di più. So che Dio ha in serbo per noi occasioni meravigliose a partire da domani per poter dispensare i suoi doni affinché noi possiamo essere degli strumenti efficaci, non per la nostra gloria, ma per la sua. Un ministro dal nome impronunciabile dice la potenza della Pentecoste è per le persone. La potenza della Pentecoste è la risposta per la paralisi spirituale di questo mondo. Ed è così, è così. Noi crediamo nello Spirito Santo, siamo battezzati nello Spirito Santo per essere equipaggiati a servire meglio chi ci sta attorno. Quindi la terza domanda, prima abbiamo detto cosa è successo, poi abbiamo detto perché è successo. La terza domanda e ultima è: può succedere pure oggi? E la risposta non è può, la risposta è deve. E deve! Deve succedere pure oggi. La Chiesa oggi, nel XXI secolo, come nel primo secolo, ha bisogno di vivere la potenza dello Spirito Santo in tutte le sue manifestazioni. Perché? Perché il mondo sta morendo. È perché solo lo Spirito Santo può fare qualcosa per restaurarlo questo mondo. Solo lo Spirito Santo può fare qualcosa per guarire il tuo cuore rotto, per guarire il cuore rotto della tua collega, per guarire il cuore rotto del tuo datore di lavoro, per restaurare, per edificare la sua chiesa. Solo lo Spirito Santo può. Noi, se pensiamo di poterlo fare da soli, siamo dei folli. Siamo dei folli. Per questo lo Spirito Santo vive in noi. Non per dire siamo una chiesa pentecostale, tanti auguri. Ma è per essere una risposta a un mondo che sta morendo. E chiesa, chiesa, immagina con me, per un attimo, quanto sarebbe bello, quanto sarebbe divino e quanto sarebbe giusto se domani, un lunedì qualunque, io e te, persone ordinarie, all'ascoltare tutte le lamentele, tutti i problemi del nostro collega di lavoro, quanto sarebbe bello se noi all'ascoltare quello dicessimo: ehi, io non ce l'ho la risposta ai tuoi problemi, però una cosa so, Gesù può cambiare la tua vita, posso pregare per te. Quanto sarebbe bello, quanto sarebbe giusto se domani, un lunedì qualunque, andassimo dal supermercato e ricevessimo così una parola di conoscenza per il nostro salumiere di fiducia, che non è Mario, Mario perché poi non vale, no, vale pure per te. Quanto sarebbe bello se la dicessimo e se poi pregassimo. Che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere Atti 3. Chiesa, perché non viviamo con questa aspettativa? Perché non vivere con questo desiderio? In fondo siamo chiesa per questo. In fondo non siamo una chiesa pentecostale per avere della buona musica, delle buone luci, un buon programma, un buon evento di Natale. C'è molto, molto di più. Noi siamo una chiesa pentecostale, cioè che crediamo nello Spirito Santo e nella sua manifestazione come nel primo secolo, nel ventuno secolo, nel ventunesimo secolo, perché viviamo con lo Spirito Santo, viviamo ripieni di Spirito Santo e abbiamo una missione. Come, che cosa succederebbe se domani a scuola, ragazzi, se domani a scuola, nel vedere l'insoddisfazione e i peccati dei nostri compagni, del nostro insegnante, del bidello, del preside, noi dicessimo: ehi, io non lo so, non lo so, non so tutte le risposte, però io so che Gesù può riempire il vuoto che c'è nel tuo cuore perché l'ha fatto col mio. Posso pregare per te? Posso pregare per te? Se domani invece del solito, no, mi dispiace, dai, su, vedrai, andrà meglio. Se invece di dire questo, dicessimo: io non lo so perché sei malato, io non lo so perché sei vittima di questo male, ma una cosa so, Gesù ti può guarire, guarisci. Che cosa potrebbe succedere? Quale chiesa potremmo diventare? E Gesù certamente tornerebbe prima. Chiesa, io voglio vivere così. Io mi sono stancata di vivere una vita ordinaria, di sottovalutare, alcune volte ignorare la potenza che vive in me, quale risposta al bisogno del mondo, del mio mondo. Non è giusto, non risponde, non riflette la nostra identità e non risponde alla nostra vera missione. Sapete una cosa? Nella preparazione di questo messaggio c'è stato un momento molto brutto dove io mi sono ricordata che io vivevo così, che c'è stato un tempo dopo aver ricevuto proprio il battesimo nello Spirito Santo, mi ricordo durante tutti gli eventi evangelistici, no? degli Upside Down, i musical, di tutto abbiamo fatto, bruttissimi musical, però volevamo proclamare il Vangelo. Io mi ricordo, non passava un giorno che fosse a scuola, che fosse per la strada, che fosse all'interno di questi eventi o così, non passava un giorno che io non pregavo per qualcuno che non conosceva Gesù. Non passava un giorno, non passava un evento evangelistico che io senza che io ricevessi una parola specifica per delle persone che io non conoscevo. Non c'era una volta che davanti a una persona sulla sedia a rotelle io mi tiravo indietro nel pregare. Ed è successo. Mi ricordo, c'avevo forse 17, 18 anni. E mi sono avvicinata, era Bitonto, sono avvicinata a questa ragazza, si chiamava Federica, e il fatto che io mi ricorda il nome dopo un sacco di anni la dice lunga. Ed era sulla sedia a rotelle. E io mi sono presentata e ho detto: come ti chiami? Federica. Ok, Federica, io voglio pregare per te, perché Gesù ti può guarire. L'ha fatto in Atti, non vedo perché non lo possa fare oggi. E io ho pregato, così, per la strada. Sapevo che quella era la mia missione. Sapevo che ero stata equipaggiata per quello, per quel momento. Federica è guarita in quell'istante? No. Però questa non è mia responsabilità. La mia responsabilità è quella di ubbidire. La mia responsabilità è quella di essere uno strumento nelle mani dello Spirito Santo. Poi è Lui che decide. Sapete che è successo? Dopo la grande delusione, poi io anche abbastanza emotiva, vabbè, vi risparmio i dettagli. Non si è alzata da quella sedia a rotelle, però mi ha detto: sai, io penso che ho bisogno di quello che hai tu. Io non lo so che cosa hai, però ci credi. E si vede che ci credi veramente. Io ho bisogno di quello. Federica quel giorno ha fatto la preghiera di salvezza. Federica ha la sua eternità cambiata per sempre. Federica ha avuto il suo vero miracolo. Chiesa, io voglio vivere così. Io voglio vivere così. Io voglio ritornare a vivere così. Perché ci sono tante Federiche. Perché ci sono tanti zoppi spiritualmente. E perché io ce l'ho la risposta. Perché lo Spirito Santo vive in me. Perché noi siamo una chiesa equipaggiata, di nulla mancante. Io voglio vivere così. Una ragazza ordinaria, un lunedì qualunque, che può cambiare l'eternità a chiunque mi circonda. Tu vuoi vivere così? Vogliamo vivere così, chiesa? Sì? Allora perché non ci alziamo in piedi? E se questo è il tuo desiderio oggi, incomincia a pregare. Semplicemente, la mia preghiera è che lo Spirito Santo possa ascoltare la nostra richiesta, la nostra disponibilità ad essere suoi strumenti, e che domani, un lunedì qualunque, possa essere pieno di occasioni e possa essere condito di guarigioni, rivelazioni, restaurazioni, tutto ciò che Dio, che lo Spirito Santo decide di fare. Amen? Perché non alziamo tutti insieme le nostre voci, senza vergogna, ad alta voce, e chiediamo a Gesù, chiediamo allo Spirito Santo di darci queste occasioni. Thank you. Signore Gesù, io ti voglio chiedere che tu oggi possa ascoltare il grido della tua Chiesa. E Gesù, noi siamo una Chiesa che vuole essere uno strumento efficace nelle tue mani. Spirito Santo, io ti prego che tu ti possa servire di noi quali tuoi servi, limitati, ordinari, che ti possa servire di noi in un lunedì qualunque per trasformare, per guarire, per farci essere quella Chiesa che tu ci chiami ad essere, per trasformarci in dei testimoni efficaci della tua salvezza, della tua redenzione, del fatto che tu, Gesù, sei venuto, sei morto, sei risorto, vuoi dare speranza, vuoi dare una vita abbondante a chi ancora non ti conosce. Gesù, che noi possiamo essere una Chiesa che guarda con gli occhi tuoi, Spirito Santo, che possiamo camminare tutti i giorni con te, pieni della tua presenza, pieni della tua potenza. Spirito Santo, io ti prego che tu possa dispensare, possa darci i tuoi doni, dono di fede, guarigione, discernimento, conoscenza, profezia, e che per il bene comune, il bene della nostra Chiesa, il bene della nostra società, il bene della nostra famiglia, il bene del nostro posto di lavoro, tu ti possa usare di noi e tu ti possa rivelare e fare quello che solo tu puoi fare, Spirito Santo. Nel nome tuo adoriamo Chiesa. Consacriamo la nostra vita.